Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Con oltre 1600 impianti in funzione, l'Italia è uno dei primi produttori al mondo di biogas. Parliamo di quel processo detto di fermentazione anaerobica che permette di degradare la materia organica, scarti agricoli, rifiuti organici, colture dedicate, chi più ne ha più ne metta, trasformandola in biogas ricco di metano e in un substrato solido, il digestato, quello che resta insomma, che è un ottimo fertilizzante. Per le aziende agricole può essere un aiuto prezioso avvalersi di questo processo, perché idealmente consente, come si suol dire, di prendere tre piccioni con una fava, cioè di trovare da un lato una destinazione utile per gli scarti agricoli anziché smaltirli a titolo oneroso, consente di produrre un biogas che può essere usato per produrre calore, elettricità e un domani per alimentare direttamente anche i trattori, e consente di produrre in proprio gran parte, attraverso questo digestato, del fertilizzante necessario. Ma si può fare ancora molto per migliorare, e a partire da questo dato è nata una startup, Biovalene, fondata nel 2015, di cui abbiamo in linea il responsabile della ricerca e sviluppo, Gianluca Randi. Buonasera Randi. Buonasera Melis. Allora senta Randi, partiamo da qui. Ci ricordi quali sono i fattori più importanti che influiscono sulla produzione appunto di biogas all'interno di uno di questi reattori, no? Che poi sono abbastanza semplici, sono delle vasche o delle campane chiuse ermeticamente dove si mette questa materia organica e lì parte un processo appunto di fermentazione. Esattamente, il processo di fermentazione è un processo complesso a cui partecipano moltissimi ceppi batterici. Certo. Ogni ceppo batterico fa la sua parte, fino alla produzione di biogas, che è una miscela tra CO2 e metano. I fattori che influenzano, per esempio, la temperatura, quindi la termofilia piuttosto che la termofilia. Un altro fattore che influenza sicuramente sono le matrici che vengono, certo, utilizzate per alimentare le centrali, quindi il potenziale energetico di queste matrici, ma anche la loro conservazione. Insomma, quello che gli diamo da mangiare ovviamente è importante per la crescita, certo, di questi esserini. Come... Andiamo avanti. L'altro aspetto, che poi è quello di cui voi vi occupate più direttamente, qual è? Noi ci incentriamo sulla ricerca e sviluppo incentrata sulla microbiologia dei sistemi, cioè noi studiamo i batteri che sono lì dentro, cosa fanno e quali sono, perché oggi la ricerca è ancora in parte nella fase di quali sono questi batteri. Una volta trovati i batteri che sono all'interno delle varie fasi della digestione anaerobica, brevemente l'idrolisi, l'acidogenesi, la cetogenesi e la metanogenesi, andiamo a vedere quali sono i più efficienti. Ecco, perché appunto spieghiamolo un attimo. Normalmente cosa si fa? Si rovesciano appunto questi contenuti e poi si lascia fare alla natura. A secondo della popolazione di batteri che c'è lì, si svilupperà più o meno biogas, perché alcune sono più efficienti, altri meno. Voi è qui che volete intervenire, no? Assolutamente. Oggi il controllo sulla biologia del sistema non è molto raffinato, è qui che noi stiamo lavorando. Come? La strategia qual è? È la selezione dei ceppi batterici più efficienti, possibilmente per ogni fase delle quattro che prima elencavo, sì? del processo di biogas. Molto chiaro, insomma, è un po' un percorso simile a quello che è avvenuto, non so, nel mondo della birra o nel mondo del vino, no? Una volta si lasciava fermentare questa roba come veniva. Oggi i produttori di birra e di vino aggiungono dei lieviti ben precisi che danno un preciso sapore a una birra piuttosto che a un'altra. Voi dovete fare lo stesso lavoro facendo in modo che la spuntino gli organismi più bravi a produrre metano là dentro. Siamo un po' i mastri birrai, ecco, della digestione anaerobica, perché poi il mastro birraio conservava gelosamente, certo, il suo ceppo di lieviti. Perfetto. E noi vorremmo fare un po' la stessa cosa, selezionare i ceppi batterici che meglio si comportano nelle varie condizioni e utilizzarli per aumentare l'efficienza delle centrali e degli impianti. E quindi voi sostanzialmente preparate un inoculo che poi appunto consente lo sviluppo di una popolazione particolarmente conveniente e particolarmente produttiva. Particolarmente combattiva, si potrebbe dire. Ok, ok. Ecco, però voi state lavorando anche su un altro ulteriore aspetto. Sì, perché noi stiamo lavorando per aumentare la quantità di energia potenziale in digestione anaerobica, cioè, lo spiego meglio, le matrici in ingresso, una parte di quello che noi mettiamo all'interno di questi grandi, di queste grandi vasche, non è utilizzata in realtà dai batteri. È come se non riuscissero a digerirla, mettiamola così. Non riescono a digerirla in maniera molto semplice. Noi invece, facendo un pretrattamento, ancora una volta selezionando microorganismi che facciano il lavoro che a noi serve, liberiamo questa energia imprigionata all'interno delle fibre vegetali. Poi. Senta, adesso quali saranno i tempi anche per andare sul mercato? Siamo in fase di prototipazione, sostanzialmente contiamo di essere sul mercato tra 6-12 mesi, anche grazie alla collaborazione di CGB di Trieste, che sta facendo la ricerca, e Area Science Park, sempre di Trieste. Con cui state lavorando sin dall'inizio, d'altronde. Va bene, grazie Randy. Grazie a lei, buona serata a tutti. Appuntamento domani.